Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio da Luca Tremolada, sono le 16.07, insomma oggi abbiamo fatto qualcosa che nessuno mai in radio aveva fatto. Abbiamo provato qui qua tre ingegneri, e anzi due ingegneri e un architetto, attenzione, occhio, e Guido Romeo, che ancora più che ingegnere architetto è un personaggio assolutamente incredibile, autore di Nova 24, giornalista scientifico. Buongiorno. Sì, buongiorno. Beh, insomma, questa volta ho disinnescato la storia del professorino. Esatto. Non sono io il professorino oggi. E abbiamo pensato di portare, insomma, ingegneri del Politecnico di Milano, ricercatori, per capire un attimino come sono fatto, cosa pensano, cosa mangiano, come vivono, come funziona la loro testa, riusciranno a reggere il confronto con Guido Romeo? Vedremo tutte queste cose. Sono tre, sono Marita, adesso li nominiamo, no? Poi li presentiamo meglio. Sono Marita Carina Canina, della ricercatrice del Politecnico di Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Poi abbiamo Raffaele Della Ca, che fa uno spin-off, ha realizzato uno spin-off. Raffaele è ricercatore anche lui. Ricercatore, buongiorno. Buongiorno. E Marco Rasponi, che non è un ricercatore, cioè, puoi dirlo. Faccio ricerca, diciamo. Faccio ricerca, però insomma qua c'è una questione, l'astegnista poi ci spiegherà bene come funziona all'interno dell'università, se viene trattato bene, se viene trattato male, se mangi, un precario insomma, però insomma un precario inventore di genio, Marco Rasponi. Buongiorno. E tutti quanti insieme appassionatamente vedremo di capire come vivono. Bene, Guido, io ho esaurito il fiato, presenta. No, non hai detto la cosa principale, perché cioè, a parte dire che cosa fanno, come mangiano, se mangiano, eccetera, questi ragazzi fanno delle cose, fanno delle cose straordinarie. Sì, anche perché poi l'immagine nostra qual è? Quella del ricercatore che guarda uno schermo di un computer, lo fissa. Al camice bianco. Si annoia un po' quelli che gli stanno intorno. Sì, non è proprio così. Adesso si arrabbiano tra due minuti, però poi cosa succede? Che dallo schermo esce magicamente qualcosa. No, invece questa volta parliamo di tute spaziali, parliamo di apparati per la misura della capacità respiratorie, parliamo di microchip per i tessuti, insomma parliamo di cose molto particolari. Parliamo di inventori. Allora, partiamo con Marita. Tu hai fatto una cosa importantissima, la BioSuit System, che cos'è? Sì, io con l'MIT di Boston ho realizzato questo progetto, che è una tuta per attività extraveicolari nello spazio, ed è un concetto di una tuta che è come se fosse una seconda pelle. Però già adesso, secondo me, un ascoltatore dice extraveicolare, cosa vuol dire? Vuol dire quando si vede l'astronauta che naviga nello spazio, okay, e va a compiere. E quella è extraveicolare. Extraveicolare. Intraveicolare invece. Ah, perfetto. È all'interno del veicolo. Per uscire nello spazio. Attualmente sono quei palloncini che vediamo. L'astronauta è proprio all'interno di un pallone, è come se fosse all'interno di un pallone, e quindi spende molta energia a contrastare la tuta. Per cui con le prossime missioni che sono previste per il 2020 su Marte, saranno molto lunghe, si esploreranno i pianeti e quindi queste tute devono essere molto più comode, molto più veloci da indossare. Il suo lavoro qual è esattamente? Cioè, io sono un architetto che si occupa di biodesign, cioè di tutti quei dispositivi che vanno a contatto stretto con il corpo, e quindi mi occupo di indossabilità, diciamo, wearability, e di tutti gli aspetti che sono non solo legati all'aspetto fisico, ma anche psicologico ed emotivo della adesso persona. Io so che Guido Romeo si arrabbierà moltissimo, però wearability, cioè nel senso, cosa succede? Che lei ha un manichino, perché io immagino il sarto, so di sbagliare, cioè mi immagino qualcuno. Esattamente, che è abbiamo così, fatto cioè, questo. Abbiamo cioè voi fatto avete questo. Una persona, gli mettete addosso un tipo di tessuto, vedete come reagisce, dite, ma nello spazio cosa succederà? Esatto. Più o meno è stato così, esattamente così, perché abbiamo studiato questa teoria, che è stata inventata negli anni 70 da Iberal, un ingegnere della NASA. Io avevo detto la mezzala, la mezzala dello Stoccolma. No, esatto. E comunque ci stiamo basando su una cosa degli anni 70. Ah. E ha fatto tutto a livello sperimentale, lui ha proprio disegnato sulla pelle delle persone dei cerchi. Ha fatto muovere le persone. Questi cerchi si deformano e ci sono delle linee che attraversano il corpo in cui c'è minore stracciamento, estensibilità della pelle, e quindi seguendo queste linee si riesce a migliorare proprio la vestibilità dei capi. Ecco. Ma no, è bello perché è bello come lo descrive, dice degli anni 70, ma in realtà quando la vedi questa tuta ricorda un po' quelle tute dei fumetti che vedevamo degli astronauti che andavano su Marte, insomma, è molto più new age in qualche modo, aderente. Molto sottile. Aderente, perché il concetto è che deve diventare una seconda pelle. Ah, okay. Per l'astronauta. Questo vuol dire che tra tipo 20 anni io vedrò Guido Romeo con addosso questo, perché cioè, se noi sappiamo che dallo spazio arrivano poi il feltro, il veltro, con tutte queste linee. Però è possibile che le cose che voi ragionate per lo spazio poi diventano innovazioni domani. In realtà lo sono già in parte diventate. Perché noi abbiamo collaborato per la realizzazione di questo primo prototipo, quindi non funzionale, un mock-up, con Dainese. Addirittura dagli Stati Uniti sono ritornata per lavorare con Dainese. E Dainese ovviamente si è offerta immediatamente, perché le stesse problematiche che ci sono poi su una tuta per lo spazio, ci sono anche su tute che vengono utilizzate in pista. Cioè il problema delle articolazioni, della mobilità, di mantenere la mobilità, di garantire la mobilità, è qualcosa che anche per i piloti è fondamentale. Ho capito. Allora, sì, do il numero 824-0024, è il numero verde se volete provare a colloquiare con un ingegnere. Scherzo, naturalmente. Una cosa. Anche perché 349-23 non fanno male. 349-238-6666, gli sms. Tra l'altro, Guido, cioè, la cosa che mi sono sempre domandato è anche il day by day, cioè nel senso, cosa succede? Cioè, qual è la sua giornata tipo? Cioè, voi arrivate, indossate una tuta? No. No, in realtà non c'è mai una giornata tipo, e devo dire che questa è proprio il privilegio che abbiamo forse noi ricercatori, che è comunque un'attività molto varia. Un aspetto molto importante. Quando dice ha detto privilegio, si scatenano gli sms. Ecco, vedi, non si alzano la mattina. A che ora si alza la mattina? A che ora mi alzo? Alle 6 del mattino. Ah, ecco. Alle 6 del mattino, perché comunque abito fuori Milano e non questo. E comunque, come tanti lavoratori, si alzano presto. È un privilegio semplicemente perché io posso fare un lavoro che mi piace tantissimo. E mi auguro che anche anche altri facciano il lavoro. Mentre Guido Romeo non si alza alle 6 del mattino. No. Io? Beh, abbiamo la trasmissione al pomeriggio per quello, no? Perché certo, se io non mi alzo la mattina. È fatto completamente apposta. E devo dire anche, si arriva molto tardi la sera. Arrivo a casa mediamente, guardo i miei colleghi, ma mediamente sono le 8:30. Quanti siete? Siamo il mio gruppo, cinque persone. Tutti ricercatori? No, assolutamente. Sono due dottorandi, un altro ricercatore e un associato. Che è il capo? Sì. È gerarchico il rapporto nel... No, non... solo con i professori ordinari. Ecco. Che sono poi quelli che riteniamo i capi. Ad esempio io faccio riferimento direttamente al direttore del dipartimento, del mio dipartimento. E come lei, lei risponde? Cioè al direttore. Al direttore. Al direttore. In realtà poi si risponde producendo articoli, partecipando a convegni. Sì, perché tra l'altro lo dico a Guido, che poi lui si occupa anche su Nova di questi temi, c'è sempre il tema della misurabilità del lavoro della ricerca e del ricercatore. Beh, il lavoro, se vuoi, della ricerca credo che sia più facile da misurare, perché insomma nella scienza ci sono le pubblicazioni, ci sono i brevetti, questi vengono misurati forse poco in Italia, ma comunque ci sono degli elementi. Quello che invece è più difficile misurare, secondo me, è il lavoro loro, cioè di questi ragazzi, perché, e anzi forse non conviene misurarlo, perché se uno andasse a misurare quante ore ci mettono nel laboratorio, diventerebbe sconveniente. Credo che Raffaele Della Ca lo sappia bene, prima si parlava appunto, ma perché il Politecnico fa una spin-off, perché conviene fare una spin-off piuttosto che avere una grande azienda che sviluppa questo tipo di tecnologie che nascono dentro al Politecnico. È una cosa da chiedere a Raffaele, facendogli raccontare che cosa fa lui nella sua ricerca, è proprio perché ci vuole una spin-off come la sua, Resmon, per trasferire la ricerca tecnologica e i risultati. Sì, due parole giusto per dire che cosa abbiamo fatto. Noi ci occupiamo di sviluppare nuove tecnologie per studiare la respirazione, i polmoni dei pazienti, e nella nostra attività abbiamo trovato un nuovo sistema che consente di effettuare queste misure senza bisogno di avere di fianco un medico che guidi il paziente durante l'esecuzione di particolari manovre. Sarà contento il medico? È contento il medico, perché grazie a questo approccio è possibile fare queste misure anche laddove il medico non può essere, per esempio a casa del paziente, per esempio durante certi tipi di trattamenti, quelli della ventilazione meccanica, il respiratore polmonare che aiuta i pazienti a respirare quando il paziente non riesce più a respirare da solo. Ecco, in queste condizioni il medico non può essere sempre presente, non possiamo avere purtroppo un medico di fianco in ogni minuto del nostro giorno. Ecco che quindi questo tipo di tecnologie possono essere molto utili per capire quando questi pazienti che hanno problemi respiratori vanno incontro a dei peggioramenti, per capire quando è necessario modificare la terapia, cambiare un po' il trattamento. Ecco, lì com'è che funziona, nel senso, cioè, perché avete deciso di fare uno spin-off? Cioè, perché avete deciso di mettere, vediamo se lo dico bene, Guido, un piede fuori dall'università? Ma diciamo che cos'è uno spin-off, perché magari chi ci ascolta non è proprio addentro a questi termini. Lo spin-off letteralmente vuol dire buttare fuori, insomma, e voi buttate fuori la ricerca che viene fatta nei laboratori universitari. Questo è il concetto. Esatto. Di solito l'attività di ricerca che noi facciamo nei nostri laboratori è quella che viene chiamata un po' ricerca di base, una ricerca che cerca di individuare nuovi principi, tecnologie, ma non arriva a sviluppare dei prodotti veri e propri. Lo sviluppo di un prodotto è invece il risultato di una ricerca industriale che è di solito portata avanti da delle aziende. Allora, nella maggior parte dei casi, appunto, sono aziende che portano avanti questo tipo di progetti, ma quando i progetti sono particolarmente innovativi, sono quindi ad alto rischio, le aziende tendono a non investire sia per l'elevato rischio sia per il problema di efficienza. In un'azienda fare certi tipi di ricerca richiede di che investimenti parliamo? Perché poi quando si parla di investimenti, ecco, per esempio per la vostra tecnologia, che quindi è una macchina che insomma misura un po' il respiro, che adesso l'ho messa un po' semplice, che tipi di investimenti avete bisogno per sviluppare questa tecnologia? Diciamo dalla parte industriale, una volta partiti quindi dalla base di ricerca, attività di ricerca fatta a livello universitario, parliamo di cifre che vanno dal mezzo al milione di euro, quindi sono cifre particolarmente abbordabili, e questo è stato anche una cosa che il motivo che ci ha spinto a realizzare la spin-off. Però voi non avete la certezza che questa cosa diventerà una macchina compiuta? Cioè, questo è il rischio, perché poi mezzo milione di euro adesso non sono nessuno, insomma, sono un sacco di soldi, chiaramente, però se ragioniamo in termini industriali non è tantissimo, cioè credo che una multinazionale come la Coca-Cola mezzo milione di euro li utilizzi per fare una fascetta di marketing, una cosa del genere. Vogliamo, cioè, parlando poi di rischio, visto che siamo, speriamo, alla fine di una crisi economica e finanziaria, ma guardiamo che cosa hanno bruciato allora derivati e simili, perché quando parliamo di rischio, questo è un rischio molto diverso da quello finanziario che abbiamo visto nell'ultima crisi, è un rischio di tipo industriale, delle prime prime fasi dell'industrializzazione, quindi c'è un rischio che tipicamente mi sembra sia di, adesso bisogna capovolgere l'equazione, ma quelle che hanno successo di solito sono 1 su 10, 1 su 7 queste startup, insomma. Quindi esatto, è rischioso, ma è fino a un certo punto, cioè so che come investitore se io investo su un pacchetto di 10 aziende, 2 buone le trovo, insomma. Esatto, di solito sono aziende che hanno degli ottimi ritorni, le 2 buone compensano largamente anche le perdite degli altri. Per dire, Apple è stata una startup, Google è stata una startup. Esatto, esatto, esatto. Ecco, ma la cosa che volevo capire, ecco, lei è quindi ricercatore, ha 2 cappelli, da un cappello quello della ricerca dove sta al Politecnico e porta avanti, avrà i suoi studenti, immagino, i suoi corsi, e poi è anche presidente di Resmon, che è il nome di questa startup. Questa doppia funzione, tra l'altro, in Italia era stata anche abbastanza criticata, perché? Perché a differenza di quanto avviene negli Stati Uniti, dove di solito al MIT, per esempio, i professori universitari fanno università per 2 o 3 anni, poi finiscono, anzi diciamo che vedono l'insegnamento come non una sconfitta, però insomma una fase di transizione, però il vero fuoco che li anima qual è? Quello di uscire, creare una startup, inventare un prodotto e diventare Steve Jobs. Questa mentalità in Italia non c'è. Ma per noi credo che sia leggermente diverso, anche perché diventare ricercatore in Italia è un percorso particolarmente lungo e difficile, e si riesce ad arrivare in fondo solo se si ama veramente questo tipo di lavoro, e quindi quando uno riesce a conquistare queste posizioni, fare finalmente il lavoro che ha sempre sognato, difficilmente cambia idea, insomma. Alla fine questa è la mia strada, ho sempre cercato, dedicato tutte le mie energie per riuscire a fare questo percorso. Nel nostro caso la spin-off è nata anche e soprattutto perché nel mio laboratorio ci sono dei ragazzi, dei dottorandi e dei postdoc molto, sono ragazzi giovani con un sacco di entusiasmo e che credono molto in questo progetto, e quindi io la vedo anche molto un'opportunità per loro per fare un tipo di ricerca che in Italia purtroppo è difficile trovare. Fare ricerca e sviluppo anche a livello industriale in ambito biomedico. Ecco, ma lo stipendio dei postdoc da chi è pagato? Del postdoc nel mio laboratorio sono pagati su fondi di ricerca che noi otteniamo facendo le varie richieste di fondi che vengono poi valutate e eventualmente finanziate. Mentre poi la spin-off avrà i suoi fondi, e quindi quando queste persone si sposteranno appunto a lavorare alla spin-off avranno lo stipendio dalla società. Sì, perché poi tra l'altro luogo comune che insomma che anima un po' la figura del ricercatore è quello di una persona che fondamentalmente passa il suo tempo a scrivere l'articolo scientifico, a lavorare su un progetto di ricerca, mentre quello che ci raccontava l'ingegnere della CA è anche un ruolo di procacciatore di fondi da un certo punto di vista. Purtroppo sì, nel senso che quando si è all'inizio della propria carriera l'attività di ricerca è studiare, fare esperimenti, guardare i dati e scrivere articoli. Poi però pian piano, quando si comincia ad avere la responsabilità di un laboratorio, è necessario trovare i fondi, che sono quelli che poi servono per pagare borse di studio, per pagare attrezzature, viaggi, per rendere possibile l'attività di ricerca. E questa è un'attività che ci impegna tantissimo, perché la disponibilità di fondi in Italia ovviamente è ancora più, come sappiamo, la disponibilità è molto contenuta, e quindi abbiamo bisogno di partecipare a tanti bandi, e la ricerca costa, e quindi la maggior parte del nostro tempo purtroppo è dedicata a questo in questo momento. La maggior parte dei bandi poi credo che sia a livello internazionale, cioè so che i bandi più ricchi sono sostanzialmente quelli europei, insomma, è lì che si fanno a prendere i soldi veri, credo. Sì e no, dipende, ci sono tantissime fonti di finanziamento, noi partecipiamo a diversi progetti europei che sicuramente sono progetti importanti, grandi e danno anche un po' di continuità, però ci sono progetti del Ministero della Ricerca che hanno tipicamente durata 2 biennale che danno ovviamente una fonte di finanziamento significativa, e poi ci sono anche delle fondazioni private che possono, nel nostro caso ad esempio abbiamo avuto una borsa di dottorato che è stata finanziata proprio per questo. E riagganciando ricollegandosi a quello che Raffaele Della Cà diceva poco fa, insomma, che gli chiedevamo quanto in realtà ci mette lo Stato italiano di fondi nella loro ricerca, cioè ci mettono chiaramente il loro stipendio perché sono dipendenti pubblici, un po' di soldi per la gestione dei loro laboratori, ma poi quello che viene dato per la ricerca in sé, per tutti i dottorandi, eccetera, mi diceva una cosa che dice centinaia, cioè io dico centinaia di migliaia di euro, dice no, centinaia di euro, cioè tutti il resto. E ringraziare. Che sono appunto le centinaia di migliaia di euro che invece avete come budget annuale, ve le andate a trovare da diverse fonti. Esatto, sempre partecipando a bandi, proponendo le proprie idee e cercando di ottenere questi finanziamenti. Tra l'altro Guido, no, posso solo dire che se non facciamo parlare Marco Gasponi, no, cioè si fa esplodere come un pasbarano, perché giustamente allora, è l'unico volentieri precario della situazione in questo momento. Allora, no, due parole, allora, lei è assegnista, assegnista di Milano, il che sì significa che oggi precario, c'è domani no, sì, di solito sì, nel senso che l'assegnista si chiama assegnista perché ha un assegno di ricerca e tipicamente dura 6 mesi, un anno, quindi almeno per 6 mesi o per un anno c'è, cioè, voi sì, siete tranquilli, sì, per ancora qualche mese sì, dopodiché io mi sento abbastanza fortunato perché ho un assegno pagato sui miei fondi personali, che adesso vi spiego cosa vuol dire, e che quindi per un altro anno, oltre a questo, mi sento garantito. Anche perché, allora, lei cosa sta ricercando? Poi ci spiega cosa sono questi fondi personali, perché chiaramente cioè, sì, sembra il conto gabbietta, no? Cioè, però, insomma, per capire un po' meglio. Io sto lavorando a un progetto di ricerca che prevede lo sviluppo di un microchip o di un insieme di microchip fluidici. Come? Fluidici, quindi li chiamiamo microfluidici perché sono dei chip in cui c'è del fluido che viene movimentato per spostare cellule, per spostare molecole. No, tra l'altro posso dire una cosa, la cosa fastidiosa è che tutti gli ingegneri fanno sì con la testa perché hanno capito. Gli unici che non fanno nessun gesto siamo io e Guido Romeo, però Guido Romeo dentro di sé ha capito, però non lo vuol dire. No, quello che sta cercando di dire, è che lui fa dei laboratori in miniatura, dei micro laboratori su... Appunto, sì, in un certo senso sì, infatti questi microchip vengono denominati a volte anche come lab on chip, ovvero laboratorio su chip, e si chiamano micro perché la dimensione dei canali delle camere all'interno di questi microdispositivi è dell'ordine dei micrometri, 100 micrometri. E cosa servono? Servono, nello specifico caso, servono per fare delle colture cellulari, che sono, che vuol dire banalmente prendere delle cellule, metterle in questi dispositivi in un modo o nell'altro. Perché non ci vanno da sole? No, non siamo ancora riusciti, no, a convincerle, riusciti ancora a incentivarle a entrare. Però ci stiamo provando, è un altro progetto. E dargli il nutrimento, dare farmaci in modo tale che sopravvivano e crescano per un determinato lasso di tempo, e in questo tempo vedere cosa farci. In questo caso quello che vogliamo fare è un drug discovery, ovvero andare ad iniettare delle molecole per curare delle patologie indotte o già presenti nelle cellule, su un array di cellule, sono 64 camere, quindi 64 camere di cellule tutte alla stessa condizione, quindi andare a stimolare per 64 farmaci differenti e vedere quale funziona meglio. Ok, quindi semplicemente, cioè questo chip qui aiuterà un po' a fare della ricerca sulle sostanze, la banalizzo, sì, un po'. Questo è, penso, l'obiettivo primario. Ecco, la prima domanda è perché, cioè nel senso che, cioè, come nascono queste ricerche? Poi è una critica che viene mossa da fuori, sì, però all'università, non so perché faccio l'accento milanese, però il ragionamento è, all'università studiano cose anche lunari, che però non lunari nel senso della tuta, ma lunari nel senso che poi non hanno una ricaduta industriale reale, o se ce l'hanno tra molti anni, per cui insomma perché dovremmo investire o finanziarlo? Ma in realtà una delle applicazioni possibili, appunto, del drug discovery credo sia abbastanza direttamente legata all'industria. Il drug discovery è la scoperta di nuovi farmaci, ad esempio, e quindi poter scoprire nuovi farmaci su base statistica in tempi ragionevoli e non in tempi infiniti è qualcosa che l'industria vuole. Perché? Perché ho fatto esperienza all'estero su questo argomento e ho proposto questa mia idea a una fondazione privata. Prima si parlava di, di reperimento di fondi. Cioè, esatto, mi racconti bene come ha funzionato. Lei ha studiato all'estero ancora... questo tema? Io sì, ho fatto un postdoc di 2 anni, 1 anno e mezzo all'MIT a Boston, e là ho imparato a lavorare con la microfluidica, a fabbricare, a fare cose che... È tornato in Italia. Prima di tornare in Italia ho sottoposto questa idea a un mio collega del Galeazzi, un altro bioingegnere, e abbiamo scritto insieme un progetto di ricerca sottoposto alla Fondazione Cariplo senza nessuna speranza, perché proporre da sinistra... Ma lì com'è che funziona? Lei va direttamente alla Fondazione Cariplo? No, sono passato tramite il Politecnico, che ha, diciamo, un account, quindi è riconosciuto alla Fondazione Cariplo perché è un ente pubblico, e ho compilato, non sono mai andato a Berlino in America, ho fatto tutto tramite online, con firma, fax e tutto quanto, e il progetto è stato valutato... immagino seriamente, perché ovviamente lei non sa chi l'ha valutato, perché poi sai, l'immagine è quello del ricercatore con un foglio di carta in mano che ha dentro tutti gli schemi, che si presenta, e dall'altra parte chi c'è? Dall'altra parte, beh, ogni fondazione ha il suo sistema di valutazione, quelle un po' più serie hanno valutatori stranieri, che è un pool di valutatori stranieri esperti del settore, che danno dei feedback, che valutano in base alla bontà del progetto, alla durata, se consona con quello che viene dichiarato e alla quantità di soldi. Quindi se il progetto non è lunare ti dicono sì, va bene, lavoraci, noi ti paghiamo quanto? Cioè, com'è che progetto funziona? Il progetto io ho richiesto esattamente quanto mi è stato dato, ovvero 300.000 euro, non è vero, 300.000 euro di progetto, di cui finanziati 150.000, perché il resto è cofinanziamento del Politecnico, quindi tramite strutture, personale strutturato. E però ci lavora da solo? Ci lavoro da solo con un dottorando attualmente, con qualche studente ovviamente, e con per metà con il Galeazzi, con cui sono partner. Ok. In cui si fa, diciamo, tutta la parte cellulare, hanno laboratori attrezzati. Ecco, l'obiettivo qual è adesso? Cioè, cuore aperto. L'obiettivo è quello di diventare anche lei ricercatore, quindi avere la sua classe, avere i suoi studenti, oppure lanciarsi nel favoloso mondo dei chip, micro laboratori fluidici, diventare miliardario, ma perché no? Perché, ma diciamo che l'idea di diventare miliardario no, diciamo che sarà difficile, però l'idea di lavorare anche in modo semi-autonomo tramite una spin-off non la vedo così remota. L'obiettivo primario è portare a termine il progetto e vedere quali risultati porta. Ma cosa fate alla fine, quando l'avete sviluppato, validato, funziona, pubblicate i vostri paper? Lo vendete o lo brevettate? Che cosa succede di una cosa del genere? Dipende, perché non è così banale, nel senso che non è detto che ciò che poi funziona e è anche innovativo sia poi brevettabile. E se non è brevettabile, non è così immediato riuscire a fare una spin-off, riuscire magari partendo da delle buone idee che sono trovate lungo il progetto, è possibile trovare qualche cosa che non è ancora stata fatta. Però l'idea di massima che sta alla base e che credo l'abbia reso finanziabile è che è qualcosa di innovativo, ma non così lunare, e quindi è fattibile, questo credo sia il... È di frontiera, come si dice, insomma, è una cosa nuova. Sì, ha qualche cosa che lo rende di frontiera, sì. Ma l'obiettivo qual è nella vita? Diventare professore? Io torno sempre su questo tema come un bambino, ma semplicemente perché dal mio punto di vista, cioè, ragiono da giornalista, per cui insomma è assolutamente da non prendere in considerazione quello che dico, però è prendere, sfidare, provare a fare l'imprenditore, forse perché lavoro al Sole 24 ore, però insomma, cioè, nella mia testa ragionerei così. Ma l'obiettivo è continuare a fare qualcosa per cui ho studiato e che mi piace fare, quindi alzarsi la mattina ed essere contento di fare il proprio lavoro, quindi andare a fare, nel mio caso, ricerca, fare qualcosa di diverso ogni giorno, senza gestendosi il proprio tempo nei limiti ovviamente della del lavoro quotidiano. Se posso, proprio Marco prima ha detto, quando eravamo in pausa, ha detto una cosa secondo me che li definisce abbastanza bene, dice è un po' essere imprenditori di se stesso, cioè bisogna seguire quelli che sono dei sogni, delle idee, dei grandi progetti, e ci devi scommettere il tuo tempo e la tua carriera accademica o comunque la tua carriera scientifica, e quindi la tua credibilità poi come possibilità di raccolta fondi e di avere nuovi progetti e di evolvere e fare altre cose, insomma. Quindi è una logica in realtà più vicina a quella dell'imprenditore che quella del dipendente pubblico che poi effettivamente uno può diventare quando diventa ricercatore. Sì, questo assolutamente, ed è una cosa che almeno nel mio caso si impara non subito, ma dopo qualche anno in cui si è ad esempio dottorandi, quindi si dovrebbe essere studenti, ma si è già imprenditore di se stesso e si bisogna sfruttare al meglio il proprio tempo per fare qualcosa di utile solo a se stessi, essenzialmente. Promette di essere il Guerre Stellari dei videogame. Esce oggi in tutto il mondo Call of Duty Modern Warfare 2. Si tratta del sequel della fortunatissima serie di Call of Duty, oltre 13 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Il gioco ci vede nei panni di una recluta della SAS britannica. Si combatte e si gira il mondo dai ghiacciai del Kazakistan fino alle favelas brasiliane di Rio de Janeiro, per gli amanti degli sparatutto. LinkedIn e Twitter fanno amicizia, anzi, si connettono. Già da adesso, infatti, gli utenti dei due social network potranno accedere ai reciproci servizi. LinkedIn è il più grande social network professionale del mondo, con 50 milioni di membri che postano informazioni personali a caccia di un lavoro o di un impiegato. Twitter, invece, consente di postare messaggi lunghi non più di 140 caratteri a tutti gli utenti iscritti. L'unione dei due, affermano gli analisti, rilancia le quotazioni di Twitter. Murdoch minaccia di bloccare l'accesso ai propri siti di informazione, ma Google non si scompone più di tanto. Dopo l'annuncio del magnate australiano di voler togliere dal motore di ricerca i contenuti di Sun, Times e Wall Street Journal, una volta che saranno a pagamento, è arrivata la replica di Google che, attraverso un suo portavoce, ha detto che sono pronti a togliere le news di Murdoch. Come dire, basta chiederlo. Tiene l'e-commerce in Italia. Secondo l'indagine del Politecnico di Milano, quest'anno il commercio elettronico, inteso come il totale delle vendite realizzate da siti italiani, è stimato poco sopra ai 5,8 miliardi di euro, stabile rispetto al 2008. La recessione gioca a favore dell'e-commerce, ma si fa sentire. Nel 2009 cresce il numero di ordini, ma si riduce del 10% lo scontrino medio. Più allineata alla media europea la spesa annua per web shopper 800, mentre è ancora basso il numero di consumatori online, circa 8 milioni rispetto agli utenti internet. Rieccoci, siamo ai saluti. Sono due cose sul rapporto della scuola del Politecnico di Milano sull'e-commerce. A quanto pare le vendite online di abbigliamento crescono il 42%, non so quale sia, mentre scala il turismo, non so quale sia il nesso con la crisi. Sì. Fa freddo, bisogna vestirsi. Vedi che è sempre una risposta pronta. Allora, noi abbiamo pochissimo tempo, volevamo salutare gli ospiti, volevamo salutare Marita Canina, Raffaele Della Ca e Marco Rasponi. Facciamo una domanda classica sugli stipendi. Facciamo il giro di tavola degli stipendi, però a me no. No, vabbè, quello è una cosa. Allora, solo la sinistra, perché è la cosa fondamentale. La sinistra viene presa come misura di ogni cosa. La sinistra oscilla tra un minimo di 1200, se non sbaglio, 50 euro a un massimo di 1495 euro netti al mese per 12 mensilità. Però sì, sì. Senza contributi. E senza nulla, quindi... ed è laureato e dottorato, però laureato, si dottorato, ritiene ricco dentro. Grazie, a domani. Ciao. Nova Lab 24.